Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Dico che bisogna essere veggenti, farsi veggenti. Il poeta diventa veggente attraverso un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi. Tutte le forme di amore, di sofferenza, di follia. Cerca se stesso, esaurisce tutti i suoi veleni per conservarne solo la quintessenza. Ineffabile tortura in cui ha bisogno di tutta la fede, tutta la forza sovrumana, in cui diventa il grande malato, il grande criminale, il grande maledetto e il saggio supremo, perché accede all'ignoto. Parigi, 20 marzo 1998. L'Hôtel de Drouot è il più importante istituto di vendite all'asta della capitale francese e il più antico del mondo. 4 sedi, 21 sale, 3.000 vendite annuali e centinaia di migliaia di pezzi scambiati ogni giorno danno vita a un via vai senza tregua, nel quale si mescolano collezionisti in cerca di rarità e curiosi affascinati dall'atmosfera vagamente decadente di questo grande mercato d'arte internazionale. Antiquari, commercianti, gente comune, tutti sono attratti dagli annunci pubblicati sulla Gazette dell'Hôtel Drouot, il settimanale oggi anche online, che invita a partecipare alle aste imminenti. Se già nei giorni normali la frenesia è palpabile, oggi l'asta si annuncia epocale. Il libraio Jean Hugues ha deciso di mettere in vendita la sua collezione di manoscritti dei più grandi poeti francesi. Tra i pezzi di maggior pregio c'è la lettera contenente lo stralcio che avete appena sentito. Si tratta della cosiddetta lettera del veggente, passata alla storia come un vero e proprio vangelo per i surrealisti, valore stimato intorno al 1,5 milioni di franchi. L'ex ministro della cultura Jack Lang ce l'ha messa tutta per far sì che lo Stato esercitasse il suo diritto di prelazione per entrare in possesso di questo originale dal valore inestimabile. Ha poi invitato artisti e intellettuali a intervenire lanciando una sottoscrizione per far entrare il tesoro in questione nel patrimonio pubblico. Al di là del culto dei bibliofili, la lettera del veggente è illuminante perché anticipa l'avventura artistica e sentimentale senza via di scampo che coinvolgerà il suo autore e un altro poeta. Stiamo parlando di Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. I primi romantici sono stati veggenti senza rendersene ben conto. La cultura delle loro anime ha preso inizio dagli accidenti. I secondi romantici sono molto veggenti, ma siccome indagare l'invisibile o dire l'inaudito è cosa diversa dal riprendere lo spirito delle cose morte, Baudelaire è il primo veggente, il re dei poeti, un vero dio. La nuova scuola detta parnassiana ha due veggenti, Albert Merat e Paul Verlaine, un vero poeta. Ecco, così studio di rendermi veggente. Follia, passione, genio, tormento. La storia di Rimbaud e Verlaine ha scandalizzato i contemporanei e affascinato i posteri. Ha sconvolto la morale e cambiato per sempre il modo di fare poesia. Nessuno dei due, senza l'incontro con l'altro, ci avrebbe lasciato la sua eredità, perché è il destino che ha deciso per loro. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. A nord-est della Francia c'è una città, Metz, capoluogo della Lorena, che nel corso della storia è stata a lungo contesa con l'impero tedesco. Paul-Marie Verlaine viene alla luce qui, il 30 marzo del 1844, anno cruciale per il pensiero occidentale, perché vengono pubblicate quattro opere fondamentali da altrettanti filosofi. Il concetto dell'angoscia, di Søren Kierkegaard, i discorsi sullo spirito positivo, di Auguste Comte, la seconda edizione de Il mondo come volontà e rappresentazione, di Schopenhauer, e infine i manoscritti economico-filosofici di Karl Marx. Non è un caso. Nel 1848 i moti rivoluzionari borghesi sconvolgeranno tutta l'Europa e ovunque c'è già un grande fervore culturale che andrà crescendo negli anni a venire, quando Verlaine si ritroverà ancora ragazzo a scegliere la strada della poesia. La morale migliore in questo mondo, dove i più pazzi sono i più savi di tutti, è ancora di dimenticare l'ora. La famiglia Verlaine è piccolo borghese. Papà Nicolas Auguste Verlaine di Vétry è capitano dell'esercito. La mamma, Élise Stéphanie de Haye, viene da generazioni di agricoltori, né ricchi né troppo poveri. Quando Elisa scopre di essere incinta di Paul, non è più giovanissima, e neppure suo marito lo è. La notizia viene accolta dunque con grandissimo entusiasmo, proprio perché del tutto inaspettata. Avere un figlio è sempre stato per lei un desiderio fortissimo, ma la sorte l'ha già costretta ad affrontare 3 aborti. Il suo dolore è stato ogni volta più grande e per tentare di sublimarlo ha cominciato a tenere sul camino, con la morbosità di chi non riesce a darsi pace, i vasi contenenti i feti dei bambini mai nati. Li toglie soltanto con la nascita di Paul, che diventa immediatamente il centro attorno a cui fa ruotare tutta la sua vita. L'amore materno si traduce in attenzioni soffocanti, in divieti a fare qualsiasi cosa per paura che il suo bambino tanto desiderato si faccia male, in una relazione ossessiva e senza respiro che porterà Paul Verlaine a essere un ragazzo insicuro. Volendo fare della psicologia a spicciola, non è difficile identificare la mancanza di autostima del poeta e il suo costante bisogno di misurare l'affetto che gli altri provano per lui nel rapporto insano costruito con sua madre. È la pena più grande non conoscerne il motivo. Senza amore e senza odio, il mio cuore ha tanta pena. Paul Verlaine ha 7 anni quando nel 1851 la sua famiglia decide di lasciare Metz per trasferirsi a Parigi. È nella capitale francese, già al centro della scena culturale europea, che incomincia i suoi studi. È intelligente, curioso, riflessivo e passa moltissimo tempo in casa, dove sua madre può tenerlo sotto controllo. Nel frattempo è arrivata a vivere con loro una giovane cugina, Elisa Moncomble. È rimasta orfana e i Verlaine hanno deciso di crescerla come una seconda figlia. Se Elisa, graziosa e gentile, vuole molto bene a Paul, per lui l'attaccamento nei suoi confronti è qualcosa di più di un semplice legame familiare. Ne è attratto, non nasconde di desiderarla e quando lei gli annuncia che ha ricevuto una proposta di matrimonio, lui la prende malissimo. Muso lungo, rancore, tristezza profonda. Il futuro poeta è così morbosamente attaccato a sua cugina che non accetterà mai la cosa. È come se il marito fosse un suo rivale, come se qualcuno gliela stesse portando via per sempre. E così, quando i neosposi si stabiliscono nella loro casa di campagna a L'Écluse, nord della Francia, lui, con la scusa di passare lì le vacanze, tenta di riconquistare Elisa. Tra la lettura rilassata all'ombra degli alberi, le passeggiate senza meta, durante le quali riflettere sulla vita e sull'arte, e le battute di caccia con cui dimostrare la sua bravura, siccome sa che si tratta di un matrimonio di convenienza, si prodiga in dichiarazioni d'amore. Lei però non cede. Lui decide allora di accontentarsi e di fare di quella ricerca ossessiva di una passione adolescenziale una fonte di ispirazione. Io faccio spesso questo sogno strano e penetrante d'una misteriosa donna che amo e che mama, e che ogni volta non è mai sempre la stessa, né mai del tutto un'altra, e mama e mi comprende. Sì, mi comprende, e il mio cuore è trasparente, per lei sola, cessa d'essere un problema per lei sola, e il madore della mia livida fronte, lei solo lo sa rinfrescare, piangendo. È la bruna, bionda o rossa? Io l'ignoro. Il suo nome? Ricordo che è dolce e sonoro come quello degli amanti dalla vita esiliati. Il suo sguardo è simile a quello delle statue e la sua voce, lontana, calma e grave, ha il suono delle care voci ormai estinte. Mon rêve familier, il mio sogno familiare, fa parte della prima raccolta di poesie di Verlaine. I Poèmes Saturniens, pubblicati nel 1866, proprio grazie all'aiuto finanziario della cugina Elisa. L'autore ha sempre dichiarato di aver scritto tutto il materiale durante gli anni del liceo, ma la critica contemporanea si è posta dei dubbi in proposito. Di certo però sappiamo che Verlaine, studente, non eccelle in nessuna materia, ma è profondamente attratto dalla letteratura. Soprattutto è affascinato dalla figura di Baudelaire e dalla sua poetica, che scopre per caso quando un giorno il suo insegnante dimentica sulla cattedra i fiori del male. Inutile dire che non avevo alcuna idea di questo genere di poesia, così fuori dalla mia portata a quell'età, che pur nutrivo di misurati brani scelti. Persino il titolo mi rimase a lungo inaccessibile e divorai il libro senza capire nient'altro se non che parlava di perversità, come si dice nei collegi per fanciulle, e talvolta di nudità, duplice attrattiva, per la mia giovane corruzione, ed ero fermamente persuaso che il libro si chiamasse molto semplicemente Le Fleur du Mal. Come che sia, Baudelaire ebbe su di me in quel periodo un'influenza se non altro di imitazione infantile e con tutte le sue possibili variazioni, eppure fu un'influenza reale e non poteva che crescere, insomma, guadagnare in chiarezza e logica. Calma e voluta, il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi, arrivati da ogni confine, per soddisfare i tuoi desideri, i tuoi desideri. Finito il liceo, Paul Verlaine si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e, siccome ha l'intenzione di partecipare al concorso indetto dal Ministero delle Finanze, prende lezioni di matematica. A 20 anni, suo padre incomincia a star male e le condizioni economiche della famiglia diventano precarie. Così abbandona l'università e va a lavorare prima in una compagnia di assicurazioni e poi al municipio di Parigi. Non per questo dimentica la poesia, anzi, è il periodo in cui pubblica i suoi primi sonetti e comincia a frequentare i caffè letterari della città. La marchesa de Ricard accoglie Verlaine a braccia aperte nel suo salotto e lo introduce a suo figlio, Louis Javier de Ricard, fondatore dell'importante rivista legata al Giro dei Poeti, che con Verlaine stesso si uniranno nel gruppo dei Parnassiani. Théodore de Banville, Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, François Coppé, vengono tutti pubblicati da un piccolo libraio specializzato in opere religiose, Alphonse Lemaire, ma a spese loro. De Ricard, in compenso, chiede a Lemaire di poter fare delle riunioni nel mezzanino del suo negozio, ed è così che nasce una nuova scuola poetica, anche se De Ricard non ama definirla propriamente scuola. Noi vogliamo dire solamente che la passione non è una scusa per fare cattivi versi, né per commettere degli errori ortografici o di sintassi, e che il dovere dell'artista è quello di cercare coscienziosamente, senza la vigliaccheria del pressapochismo, la forma, lo stile, l'espressione più capace di rendere e fare valere il suo sentimento, la sua idea o la sua visione. A parte questo dogma comune, se veramente è un dogma, noi custodiamo gelosamente soprattutto la nostra libertà personale. Una scuola parnassiana, nel senso tradizionale della parola, non c'è mai stata. A differenza dei romantici, eccessivi nell'espressione del sentimento, i parnassiani prediligono uno stile sobrio e impersonale e rifiutano il concetto di artista impegnato socialmente e politicamente. Come reazione alla figura dell'intellettuale engagé, hanno come unico scopo il raggiungimento della bellezza. Dunque, non l'arte usata come strumento per parlare di altro, ma arte per l'arte. Costretto a lasciare l'università dalle indigenti condizioni familiari, Paul Verlaine trova un equilibrio tra il lavoro e la poesia, passando molto tempo nei caffè. Ora ha uno stipendio discreto, perché è passato a lavorare dal comune alla prefettura della Senna, e spende gran parte dei suoi soldi nelle bevute ad alto tasso alcolico, con gli altri parnassiani al Café Dugas. Quello che all'inizio è un modo per accompagnare la conversazione presto diventa un vizio. E quando Elisa, l'amata cugina, muore nella sua casa di campagna a Lecluse, Verlaine arriva tardi al funerale, passa 3 giorni a vagabondare disperato e ubriaco, sconvolge la sua famiglia e desta scandalo nel paese. Tornato a Parigi con i suoi amici bohemiens, scopre il piacere allucinogeno dell'assenzio. È un periodo di vita sregolata, senza freni, di notti brave passate tra i bar e la strada. E forse questa è la mia vera indole, si chiede Verlaine. In ogni caso, decide di non assecondarla e di propendere invece per la tranquillità del matrimonio. Certo che una moglie possa riuscire a placare le sue intemperanze e, convinto che nel suo destino ci sia scritta una vita familiare serena e convenzionale, sposa l'11 agosto 1870 la 17enne Mathilde Mottet de Fleurville. Vedrai. Quanti sono felici in questa vita presto ci invidieranno, talmente ci ameremo. 1871. La popolazione della capitale, a seguito della rivoluzione scoppiata dopo la sconfitta francese a Sedan durante la guerra franco-prussiana, istituisce la Comune di Parigi. Si tratta di un governo rivoluzionario popolare che, dopo aver adottato la bandiera rossa, prende una serie di provvedimenti di impronta socialista. Eliminazione dell'esercito permanente e armi in mano ai cittadini. separazione di Stato e Chiesa, istruzione laica e gratuita, retribuzione dei funzionari pubblici e dei membri del Consiglio della Comune con salari vicini a quelli degli operai e infine associazione libera per i lavoratori. Dopo poco più di due mesi interviene il governo ufficiale e con trucci, fucilazioni e massacri indiscriminati si riprende il potere. Migliaia di parigini sono costretti alla fuga, le condanne sono decine di migliaia e moltissime le deportazioni. Verlaine è entusiasta della rivoluzione, è molto attivo nelle fila dei rivoltosi. Tuttavia, quando l'ordine viene ristabilito per proteggere se stesso e la moglie, ritiene opportuno rifugiarsi a Fanpu, non lontano da Calais. Tornati a Parigi alcune settimane dopo, il pericolo di ritorsioni sembra ormai scampato. Verlaine si ritrova però senza lavoro e lui e Mathilde sono costretti a trasferirsi dai genitori di lei. La vita coniugale, ancora giovane ma in apparenza solida, scorre tranquilla e dona a Paul la serenità che cercava per dedicarsi alla sua poesia. Fin quando, una mattina, Verlaine riceve una lettera. Proviene da Charleville, al confine col Belgio, e a mandarla è il giovane poeta Arthur Rimbaud. Da questo momento la vita di entrambi non sarà più la stessa. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1871 e siamo in una Parigi reduce dall'esperienza della Comune. Anche il poeta Paul Verlaine vi ha preso parte con entusiasmo per poi, una volta ripristinato l'ordine da parte dell'esercito francese, tornare alla vita di sempre. Poeta della scuola dei Parnassiani e marito devoto di Mathilde. Cresciuto da una madre ossessiva e trascorsa la giovinezza alla disperata ricerca dell'amore della cugina Elisa, Paul è geniale ma insicuro e non ci mette molto a lasciarsi trascinare dagli amici sulla via della perdizione. Per questo, dopo mesi di vita sregolata, vagabondare ubriaco tra un caffè e l'altro, si è imposto la tranquillità del matrimonio. Ma proprio quando il suo animo sembra finalmente essersi quietato, riceve una lettera che cambierà il suo destino. Proviene da Charleville e a mandarla è il giovane poeta Arthur Rimbaud. Ho il progetto di realizzare un grande poema e a Charleville non mi è possibile lavorare. La mia mancanza di denaro mi impedisce di venire a Parigi. Mia madre è vedova ed estremamente devota. Non mi dona che 10 centesimi tutte le domeniche per pagare la mia sedia in chiesa. In allegato ci sono 8 poesie. Verlaine le legge tutte d'un fiato. E subito, impressionato dal talento del suo giovane ammiratore, gli risponde con gioia di raggiungerlo al più presto a Parigi. Oltre alla lettera, mette nella busta del denaro. Venite, cara grande anima. Vi si chiama. Vi si attende. Nel 1871, quando scrive per la prima volta a Verlaine, Rimbaud non ha ancora compiuto 17 anni. Nasce infatti il 20 ottobre del 1854 a Charleville, nelle Ardenne. Abita al numero 12 di Rue Napoléon con la sua numerosa famiglia. Papà Frédéric, per un curioso caso del destino, è un capitano dell'esercito come il padre di Verlaine. Ha partecipato alla guerra d'Algeria ed è stato decorato con la Legion d'Onore. Nonostante la formazione militaresca di papà, è mamma Vitalie Quif, la vera gendarme di casa. Figlia di proprietari e terrieri di Roche, si comporta con i 4 figli sopravvissuti dei 5 avuti dal marito con una rigidità che non concede mai spazio a un gesto affettuoso. Frédéric è un padre poco presente, sempre in giro per un lavoro nomade per definizione, ma dopo la nascita dell'ultima figlia decide di abbandonare la famiglia volontariamente e se ne va a Digione. Vitalie cambia casa, stesso paese ma strada diversa, si rimbocca le maniche e tira su i suoi bambini con in testa 2 ossessioni, la rendita delle terre e la rispettabilità sociale. Dritta con la schiena, corsetto nero per costringere il corpo oltre che lo spirito e guanti di filaticcio, detta le sue regole. Severamente vietato giocare con i figli degli operai e tutte le domeniche a messa, femmine davanti e maschi dietro, tutti con in mano un ombrello di cotone blu. Je te salue, ma belle Dijon, ô maîtresse Burgonde. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde je n'aurais voulu naître. Bien sûr, tu as exacerbé mes aigreurs de jeunesse, mais tu es longue à décoincer, à te bouger les fesses. Nonostante la determinazione di mamma Vitalia a fare dei suoi figli un modello di rispettabilità borghese, lo spirito di Arthur riesce a sfuggire dal suo controllo fin dall'infanzia. C'è un aneddoto che risale a quando ha 6 anni. Affidato in balia a una famiglia di fabbricanti di chiodi di Jespunzat, comincia a fare quello che vuole e quando sua madre lo va a trovare, lo sorprende dentro una vecchia cassa per il sale. È nudo. Non sapendo cosa farsene di tutti i vestiti di lino confezionati apposta per lui, li ha regalati al figlio della balia. Ceffoni, digiuno, punizioni corporali. La sorella Isabelle Rimbaud ricorda con queste parole quanto fossero duri gli anni dell'infanzia in Rue Bourbon. Abbiamo sempre lavorato senza esitazioni, senza debolezze, senza permetterci la seppur minima distrazione, il minimo rilassamento. Non abbiamo conosciuto nessuno dei piaceri che di solito i giovani non si fanno mancare. Nessuna esistenza fu austera quanto la nostra. Le carmelitane e i trappisti hanno più gioie di quante ne abbiamo avute noi. L'esordio da studente di Arthur Rimbaud è strepitoso. Migliore della classe in grammatica e in latino, bravissimo in storia e geografia, vero talento in recitazione e in lettura dei classici. In 3 anni e mezzo vince 13 premi. Scrive già per puro piacere personale e la sera intrattiene i suoi fratelli per lunghe ore con i suoi racconti ambientati in luoghi sconosciuti. Precoce a scuola e nella vita, intorno a 10 anni, è già chiaro che Arthur ha un'inclinazione anticonformista e ribelle, tanto da disprezzare il lavoro e la società. Perché, mi dicevo, imparare il greco e il latino? Non lo so, non c'è bisogno. Che me ne importa di essere promosso e a che serve? A niente, non è vero? Sì, però dicono che non si trova un posto se non si è promossi. Io di posti non ne voglio, io vivrò di rendita. Sorprendente come solo un genio può essere, Rimbaud viene colto da un improvviso quanto passeggero fervore religioso. I compagni lo chiamano bigotto, proprio lui che è contro a ogni regola imposta. Durante l'ora di matematica fa i compiti di latino per gli altri, con una grafia diversa per ogni amico. È silenzioso, con gli occhi azzurri sempre vigili, non ride mai. Ed è impossibile capire cosa stia pensando. Quando il suo insegnante orgoglioso lo definisce un prodigio, il preside gli risponde convinto che il ragazzo, per quanto intelligente, farà una brutta fine. Intanto passa le sue giornate dai librai, divorando ogni novità che arriva da Parigi. Qualche volta, siccome non può comprarlo, porta il volume a casa di nascosto e poi lo riporta, facendo attenzione di metterlo esattamente dove l'aveva preso. È così che scopre i poeti parnassiani e lo stesso Verlaine. Ormai in mente ha soltanto il desiderio di partire per la capitale e di diventare uno di loro. La mia città natale è superlativamente idiota fra tutte le cittadine di provincia. Che orrore, i droghieri in pensione che si mettono l'uniforme. Sono spaesato, malato, furioso, istupidito, stravolto. Aspiro a bagni di sole, passeggiate infinite, riposo, viaggi, avventure, insomma, cose da bohemien. Nel 1870, sedicenne, Rimbaud va alla stazione per il suo primo tentativo di fuga verso Parigi, ma non ha soldi e viene arrestato. Qualche settimana dopo dice a sua madre che vuole fare una passeggiata e si incammina verso il Belgio, fermandosi nelle locande sulla strada per rifocillarsi e scrivere poesie. Anche questa volta, nonostante i giorni di vantaggio, sua madre si mobilita e riesce a riportarlo a casa. La sua rabbia ormai è montata. Se la prende con i preti, con gran parte dell'umanità che andrebbe sterminata a fuoco lento. Inveisce contro la Francia sciovinista. Nel febbraio del 1871, infischiandosene della neve che copre Charleville, vende il suo orologio e riparte per Parigi. Di lì a poco ci sarebbe stata la parentesi rivoluzionaria della Comune. Non sappiamo se Rimbaud prende parte in modo attivo o no alla Comune, tra una peregrinazione e l'altra. Entusiasta però dello spirito della rivolta e costretto questa volta dagli avvenimenti a tornare a Charleville, ipotizza una bozza di costituzione comunista e si butta a capofitto nella rivoluzione che più gli interessa, quella della poesia. È il momento in cui scrive la celebre Lettera del Veggente che abbiamo citato all'inizio della nostra storia, quella lettera che parla di follia, amore e stravolgimento dei sensi, in cui già si intravedono insomma i semi del suo futuro artistico e umano. Ma ormai la provincia gli sta davvero troppo stretta. Aspetta che a Parigi si calmino le acque e poi chiede aiuto, su consiglio di un anarcoide del paese che lo conosce, al poeta Paul Verlaine. Quando questi gli risponde di raggiungerlo al più presto, Rambo è tanto eccitato quanto teso. Quanto a intelligenza non temo nessuno, ma quello è un mondo di salotti e intellettuali. Non saprò come comportarmi. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Destini incrociati. Stazione di Parigi. È il 1871 e il poeta Paul Verlaine sta aspettando il treno da Charleville, da cui dovrebbe scendere il giovane collega ribelle e squattrinato Arthur Rimbaud. Rimbaud non ha ancora 17 anni e dopo vari tentativi di fuga dalla provincia ha chiesto a Verlaine di ospitarlo in città. Una volta sui binari però non lo vede e così si dirige dritto alla casa dei suoi suoceri, dove Verlaine, disoccupato, vive con la moglie. I modi bruschi e il tono sprezzante di Rimbaud spiazzano non poco la benestante famiglia Motet. Verlaine invece, rientrato dopo la vana attesa alla stazione, resta immediatamente folgorato dalla sua intelligenza e lo introduce nei circoli letterari che frequenta. All'epoca relativamente lontana del nostro sodalizio, Arthur Rimbaud era un ragazzo tra i 16 e i 17 anni, già in possesso di tutto il bagaglio poetico che il vero pubblico dovrebbe ormai conoscere. L'uomo era alto, ben fatto, quasi atletico, con un viso perfettamente ovale da angelo in esilio, i capelli castani sempre in disordine e gli occhi di un inquietante azzurro pallido. Ardennese, oltre a un piacevole accento provinciale, troppo presto perduto, possedeva il dono di una pronta assimilazione tipica di quel luogo, il che potrebbe spiegare anche il rapido inaridirsi della sua vena poetica sotto l'insipido sole di Parigi, per parlare come i nostri padri, il cui linguaggio semplice e diretto, in fin dei conti, non era sbagliato. Nei bar del quartiere latino non si parla d'altro che del genio di Rimbaud. Quando legge le sue poesie, tutti i più grandi restano ammutoliti di fronte al suo talento precoce. Ma tra Rimbaud e Verlaine scatta qualcosa di più della reciproca influenza creativa. È un amore appassionato, che viene vissuto pienamente dal giovane Arthur e con grandi sensi di colpa da Paul. Se infatti il primo vede nell'omosessualità una tappa della sua ricerca della conoscenza universale, il secondo, sottomesso e insicuro, non sa più gestire se stesso e la relazione con sua moglie, che nel frattempo gli ha dato anche un figlio. Le voci, si sa, corrono veloci e l'amore tra i due poeti presto diventa il più grande scandalo del periodo. Loro non se ne curano e sanno come difendersi se qualcuno li attacca. Una sera Rimbaud ferisce con un coltello un giornalista colpevole di aver fatto commenti ironici. Rimbaud mette sottosopra la casa dei suoceri di Verlaine e poi la lascia, iniziando un periodo di notti passate a dormire sulle panchine e grandi sbornie. Verlaine non lo lascia mai solo e lo accompagna anche in questa deriva alcolica che lo porta a essere sempre più violento con la moglie, fino a tentare di strangolarla. Non piangere, Matilde. Sto facendo un brutto sogno. Tornerò. Come togliere al vento l'armonia? Come negare che ti amo? A nulla servono le promesse fatte a sua moglie. Ogni volta che Verlaine cerca di lasciare Rimbaud, non ce la fa. Indomabile, geniale, quasi sempre imbottito di assenzio, Arthur non ci mette molto a convincere Paul a mollare la famiglia per partire con lui. Matilda, pur di riprendersi il marito, raggiunge i due fino in Belgio, ma viene rifiutata, torna a casa e chiede la separazione. In giro per l'Europa Verlaine e Rimbaud vivono all'insegna della libertà sfrenata, corrompono doganieri, vengono arrestati, bevono fino a non poterne più. Nel settembre del 1872 si stabiliscono a Londra, in un appartamento al numero 34 di Holland Street. Sono entrambi impressionati dalla maestosità della metropoli inglese, con le sue strade immense, i carri, la gente di colore e un'architettura mai vista prima. È un periodo molto prolifico per entrambi, che si influenzano a vicenda nelle rispettive opere. Ma Paul, ubriaco dalla mattina alla sera, cade nello sconforto per la richiesta di separazione che riceve da Matilda. Non era questo che sognava per loro, ma non può farci niente. La passione per Arthur è più forte di qualsiasi cosa. Non importa se le liti tra i due poeti si fanno sempre più frequenti e le risse sempre più violente. Nemmeno Rimbaud può stare senza Verlaine. Ritorna, amico caro, amico unico, ritorna. Ti giuro che sarò buono, ritorna e tutto sarà dimenticato. Da 2 giorni non smetto di piangere. Se non devo più vederti, mi arruolerò nella marina o nell'esercito. Tra coltelli e minacce di suicidio, l'amore folle comincia a trapelare negli ambienti comunardi londinesi, dai quali i due vengono esclusi. I due vanno a Bruxelles, ma Rimbaud vuole a tutti i costi tornare a Parigi. Geloso e inferocito con il compagno che non vuole cambiare il suo programma, Verlaine spara a Rimbaud 2 colpi di rivoltella, ferendolo lievemente a un polso. Poi scoppia in un pianto isterico, gli dà la pistola, lo supplica di sparargli. L'8 agosto Verlaine viene condannato a 2 anni di prigione e 200 franchi di multa, nonostante Rimbaud abbia deposto a suo favore. Pochi mesi dopo, Arthur gli porta in carcere il manoscritto Una stagione all'inferno, il tormentato percorso artistico e spirituale della sua vita, che diventerà il suo capolavoro. Una volta uscito di prigione, Verlaine pubblica un saggio sui poeti maledetti, che fa conoscere Rimbaud come un grande maestro della poesia. Il giovane, intanto sempre più annoiato, intraprende viaggi avventurosi in Africa, subisce l'amputazione di una gamba per un cancro e muore a Marsiglia, a 37 anni, dopo una vita di eccessi. Verlaine, incoronato principe dei poeti, dopo l'incontro con Rimbaud, non sarà mai più lo stesso. Morirà nel 1896, nella miseria. Qualche volta la vita e la poesia sono la stessa disperata sintesi di amore e tormento. La miseria di una stanza a Londra, le fumerie di Sol, già grande si buttava via. E sua madre nel fienile e nel ricordo, vecchia scassata borghesia. Ribaltare le parole, invertire il senso fino allo sputo, cercando un'altra poesia.